la regina di Sheba, una donna desiderosa di accrescere la propria saggezza. Lentamente la lunga carovana avanzava per la strada che saliva da Gerico a Gerusalemme. I cammelli con carichi pesanti procedevano scuotendo la testa. Gli uomini che rimontavano pregustavano la prossima fine del lungo viaggio. La donna al centro del gruppo che aveva preparato la spedizione si chiedeva se la loro strenua fatica sarebbe stata compensata. C'erano volute settimane per percorrere 2000 miglia. Le notti fredde e i giorni caldissimi sembravano senza fine. La campagna circostante era arsa dal sole e non era certo una gioia per la vista. Peggio di tutto erano state le tremende tempeste di sabbia e gli spaventosi venti del deserto, ma il suo cuore sapeva di dover proseguire. Nella sua casa, il palazzo reale a Sheba, essa aveva ripetutamente sentito parlare di Salomone, l'uomo che sembrava immensamente ricco ed incredibilmente sapiente. La sua fama si era sparsa in tutto l'Oriente. Tutte le persone della terra consultavano Salomone per sentire la saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore. Molti re lo visitavano, lo consultavano e lo onoravano con ricchi doni. Lei aveva molte domande da porgli sulla sua vita personale, sui suoi obblighi reali e su Dio. Era significativo che le voci a lei giunte riguardo a Salomone fossero sempre connesse con il nome dell'Eterno. Si diceva che proprio Yahweh, il Dio di Israele, fosse la sorgente della prosperità di questo re. La regina di Sheba conosceva molti del mare, della terra, della guerra, del vino, del giorno, della notte, ma essi non avevano mai risolto i suoi problemi. Forse invece questo Dio sarebbe stato capace di farlo. La maniera in cui la regina aveva disposto le cose da fare ne dimostrava il senno. Nella sua saggezza essa aveva riconosciuto di avere una conoscenza e una intelligenza limitate, voleva saperne sempre di più ed era disposta a fare grandi sacrifici per giungere a questo traguardo. La vera saggezza va di pari passo con l'umiltà. La regina di Sheba era umile abbastanza da palesare al mondo esterno di essere alla ricerca di qualcosa e di non essere soddisfatta dello status in cui si trovava. Chiunque vedeva passare la carovana sapeva che la regina stava recandosi a Gerusalemme per consultare il saggio Salomone. Superata l'ultima curva della strada, vide la città di Gerusalemme, là sulle montagne. Alcuni dei palazzi più imponenti attirarono la sua attenzione, particolarmente il palazzo del re e il tempio di Dio. Dietro di lei venivano i cammelli chini sotto il peso di spezie rare e gemme preziose, il cui valore non si poteva neanche immaginare. Qualcuno ha calcolato che 120 talenti d'oro varrebbero circa 26 milioni di euro di oggi. Salomone, il decimo figlio di Davide, e il quarto nato dall'unione con Bat-Sheba, fu il terzo re di Israele. Egli fu anche chiamato, secondo la volontà di Dio, dal profeta Natan, Yedidia, che significa amato da Dio. Dopo aver ereditato il trono del padre Davide, l'Eterno gli apparve in sogno una notte e gli disse: «Che cosa vuoi che ti dia?» La risposta del giovane rivelò che egli riconosceva la sua nullità e la sua dipendenza da Dio. «Da al tuo servo una mente capace di governare, in modo che io possa discernere il bene dal male, perché chi può comandare il tuo grande popolo?» Questa risposta fu così gradita a Dio, che aggiunse anche ricchezze, onori ed una saggezza così grande da non essere mai più eguagliata da nessun altro essere mortale. Salomone fu più grande di tutti gli altri re della terra, e il suo popolo possedette metà dell'oro della storia. In questo periodo storico, l'Egitto, la Siria e Babilonia erano ancora deboli, e i grandi giorni della Grecia di Omero dovevano ancora arrivare. Al tempo di Salomone, Israele era il più grande regno del mondo allora conosciuto, e Gerusalemme, la più bella città. Nessun edificio poteva paragonare la sua bellezza al Tempio. In questo ambiente una monarca andò a visitarne un altro, e non si trattava di una visita di Stato ma privata. La conversazione era stimolante. La regina era umile abbastanza da rivelare la sua fame di sapienza. Essa fece a Salomone tante domande difficili. La regina scoprì che Salomone era un uomo aperto, una persona con una infinita comprensione. Come lei occupava l'alto ma solitario ruolo di capo, di conseguenza era qualcuno che poteva capirla a fondo. Anche lui aveva avuto gli stessi problemi. Con grande sorpresa e ammirazione, constatò che nessuna domanda era troppo profonda o troppo difficile. Per lui, egli aveva una risposta per ogni problema. Essa vide che Salomone era veramente benedetto da Dio. Non aveva solo una saggezza intellettuale, ma anche il buon senso necessario nelle situazioni pratiche di ogni giorno. La regina lo intuì dal modo in cui era costruita la sua casa, dall'organizzazione dei servi e dei ministri, dalla qualità dei pranzi, dalla varietà delle bibite. Ogni dettaglio della sua vita era permeato di saggezza e la sua fede in Dio ne influenzava ogni altro aspetto. Era puro e leale, perché Dio era il centro della sua esistenza. Il re Salomone non solo la coinvolse nei suoi doveri giornalieri, ma condivise con lei il suo modo di servire Dio. Ed essa scoprì il vero segreto della vita di successo di Salomone quando egli offrì i suoi olocausti all'Eterno. Egli identificava se stesso con l'animale innocente che veniva ucciso in sua vece per il suo peccato. Questo rivelò un seme di verità alla regina di Sheba. La vita di Salomone era libera perché sapeva che i suoi peccati erano perdonati. Tale certezza era basata sui mezzi da Dio stesso provveduti. Il sangue sparso di un innocente animale garantiva al colpevole il perdono e la piena libertà. La comunione con Dio era la sorgente di tutta la sua sapienza, della sua sensibilità e prosperità. Lo scopo della vita di Salomone, scoprì la regina, non era quello di imparare di insegnare la saggezza, ma di avere il timore dell'Eterno, cioè fare ciò che era giusto ai suoi occhi. Salomone osservava i comandamenti dell'Eterno e dichiarava che ciò era quanto Dio desiderava da tutti gli uomini, inclusi re. La regina era meravigliata, era senza parole, le sue grandi aspettative erano state sorpassate. Quello che avevo sentito dire nel mio paese dei fatti tuoi e della tua sapienza, disse, era dunque vero, ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con gli occhi miei. Ed ora ecco, non me n'era stata riferita neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama giunta alle mie orecchie. La regina invidiava i servi di questo re, i suoi sudditi, coloro sui quali egli aveva autorità. Come regina, lei era cosciente che la saggezza era da preferirsi ad ogni altra cosa. E, cosa più importante di tutte, essa riconobbe che Salomone era un dono dell'amore di Dio al suo popolo perché questo potesse essere governato bene. Essa era stata arricchita intellettualmente, materialmente e spiritualmente dall'incontro con Salomone. Si rendeva conto che non era solo un grande e ricco re, ma aveva un potere spirituale da lei mai trovato altrove. Il re aveva condiviso con gentilezza e generosità non solo la sua grande sapienza, ma anche ricchezze di gran lunga eccedenti, i doni preziosi da lei offerti. Il valore del dono maggiore da lei ricevuto era tale da non poter essere valutato, perché era la conoscenza di Dio, unica fonte della vera saggezza. Proprio per questo la regina di Sheba fu una donna che fece storia. Anche Gesù Cristo la citò come esempio. Egli la lodò per aver non risparmiato né denaro, né fatica pur di ascoltare la saggezza di Salomone. Servendosi dell'azione di lei, egli condannò quelli che non prendono sul serio la sua sapienza. La regina di Sheba era stata ed è un esempio splendido dell'importanza di prendere sul serio le cose che concernono Dio, per investigarle più a fondo. Essa non ha trascurato la circostanza favorevole, non ha accantonato l'opportunità, non è rimasta nel dubbio, per poi lamentarsi di non aver luce a sufficienza, ma con il massimo impegno ha voluto arrivare a risolvere i propri dubbi su Dio. Ha dato prova del suo grande ingegno nell'afferrare l'opportunità a lei offerta di imparare da qualcuno più saggio di lei. Essa non solo aveva ascoltato le voci udite intorno alla saggezza di Salomone, ma aveva fatto tutto il possibile per cercare di scoprire la vera sorgente della saggezza. Si era arricchita forse solo intellettualmente? Era stata quella la sua sola soddisfazione o aveva dato il suo cuore a Dio stesso, alla sorgente della saggezza? Si era arresa al Dio con il quale neanche Salomone poteva essere paragonato. Perché la più grande sapienza non viene dalla mente e neppure dal cuore umano. Le aspettative di un tale cuore non potevano essere deluse. Era veramente saggia la regina? Aveva capito veramente quello? Che Salomone le aveva detto e aveva applicato col cuore la saggezza vista in lui? Aveva raggiunto completamente gli obiettivi che si era proposta? La sua ricerca sarebbe stata un fallimento se essa non avesse trovato Dio. In questo caso essa sarebbe una figura tragica invece del perfetto esempio che è. La Bibbia non risponde a queste nostre domande, ma forse una risposta possiamo trovarla nelle parole di Gesù, quando la elevò al di sopra dei giudei, citandola come esempio ad alcuni farisei e scribi del suo tempo. La regina di Sheba fu una donna pronta ad affrontare qualunque sacrificio pur di diventare più saggia, mettendo in pratica ciò che è scritto. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento. Poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento, e il suo frutto vale più dell'oro fino. Proverbi 3.1-3.14. La regina di Sheba era ricca, possedeva dell'argento e dell'oro. Perché altrimenti non sarebbe stata tale, ma il suo cuore era vuoto. Aveva capito che niente sulla terra avrebbe soddisfatto il bisogno nascosto in lei, e, in quelle condizioni, con il desiderio di trovare, e non solo tanto per cercare, era andata a ricercare nel Dio di Salomone la risposta ai suoi bisogni. E Dio che premia coloro che lo cercano per ottenere i veri valori spirituali, l'ha retribuita non solo su questa terra, ma per l'eternità. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,